Incontri di Gianfranco Fabi. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it My Way, la voce inconfondibile di Frank Sinatra. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera all'avvocato Emilio Terpin. Buonasera. My Way, probabilmente perché l'avvocato Emilio Terpin è presidente di Autovie Venete e quindi parlare di strada, parlare di cammino fa parte della sua prassi quotidiana, sì. Ma anche perché le piace Frank Sinatra, probabilmente. Ah, ma certamente. Frank Sinatra è stato uno dei miei idoli e non solo, ma lo sento ancora, lo ascolto ancora. Assegno a My Way dei significati particolari. Cioè quali significati? Beh, praticamente, cioè, penso che rifletta un po' la tipologia della vita che ho percorso. Cioè una vita intensa, una vita che continua, adesso è presidente dello Stato Autovie Venete, ma in passato è stato presidente, ha avuto molti incarichi in campo soprattutto di istituzioni pubbliche. Possiamo ricordarli così rapidamente, sia nel campo della sanità, sia nel campo dell'economia, della promozione economica. Sì, in effetti ho avuto un sacco di esperienze, perché ho cominciato, parlo delle più rilevanti ovviamente, ma ho cominciato con l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, ancora circa 30 anni fa, quando ancora era incidente proprio sul tessuto sociale della città. Poi parlo del Fondo per le Iniziative Economiche del FRIE, cioè un fondo che finanziava tutte le iniziative economiche. Ecco, parliamo di Trieste, parliamo di Friuli Venezia Giulia, esatto. Poi c'è stata una lunga permanenza nella Fondazione Cassa di Risparmio, c'è stata una presidenza nella Finest, che è la sorella minore della Simest, quindi dell'internazionalizzazione delle aziende del Friuli Venezia Giulia verso l'est, addirittura ai confini con la Cina. E poi un periodo sono stato commissario straordinario per l'Istituto di Ricerca e Cura Burlo Garofalo, che è un istituto pediatrico. Adesso le autostrade. Quindi soprattutto a livello di gestione di un territorio molto dinamico, quello di Trieste, del Friuli Venezia Giulia. Se dovesse scegliere fra questi incarichi quello che le ha dato più soddisfazione, allora, a parte l'ultimo di cui parleremo tra poco. Ma soddisfazione, guardi, certamente mi ha dato quello nel settore della sanità, perché trattare la sanità si entra in un mondo particolare dove l'oggetto, il core business è la salute. E la salute è qualcosa fuori concorso. Se poi la salute riguarda i bambini, e si vedono i bambini oncologici, si vedono le malattie rare, si vedono, evidentemente si acquisisce una sensibilità sofferta tante volte. E se questo poi si unisce al far quadrare i conti, si incontrano delle problematiche che non sono da poco. Ecco, problematiche che però si possono risolvere. Possiamo dire che in Italia ci sono anche dei centri di eccellenza. Ma in Italia ci sono certamente centri di eccellenza, ce ne sono non pochi, direi che sono trascurati. Ecco, e nel tempo libero di queste attività lei ha fatto anche l'avvocato. Ma diciamo, facciamo il contrario. Io prima di tutto ho fatto l'avvocato, come mi ricordava un amico, sono un avvocato fortunato perché i miei clienti hanno sempre ragione, ma la professione mi ha consentito di essere libero nello svolgimento di quelle incariche. Ecco, quindi fare l'avvocato vuol dire anche avere poi conoscenza di un territorio che come giudicherebbe Trieste e Friuli rispetto al resto d'Italia? Ma dividerei la storia, cioè, in tre fasi. C'era la prima fase, che era quella del confine chiuso, perché noi a 15 chilometri avevamo la cortina di ferro. E poi dopo la caduta del muro è cominciata un'altra fase, quella dei confini aperti, che non sono ancora del tutto aperti, ma credo proprio quest'anno si aprirà anche la Croazia e via via. E quindi c'è una fase completamente diversa dalla prima. Ecco, qui possiamo parlare, cominciare a parlare anche di quest'ultimo incarico, presidente di Autovie Venete. Autovie Venete che cos'è? Beh, è una concessionaria che gestisce l'autostrada, diciamo, da Venezia a Trieste con punte a Udine. È stata un'esperienza interessantissima, paracadutata dall'alto. Io ero un utente cinquantennale, pensavo che il tutto si riducesse al pagamento del pedaggio, e in realtà non è così, è una realtà ipercomplessa che ha molti molti aspetti, uno tra i tanti. Pensi che noi abbiamo costruito dei pezzi d'autostrada e il 30% dei costi circa sono stati destinati a provvedimenti che riguardano la tutela del territorio. Quindi interventi esterni rispetto all'autostrada. E per prevenire inquinamenti, certo, ed altro. Ecco, lei da utente probabilmente aveva qualche critica verso l'autostrada, il traffico, ma le certo code. Sì, ma certo, ma sa, io appartengo a quella generazione che ha sofferto il famoso passante di Mestre, cioè quando venivo da Milano ormai tutti coloro che venivano da Milano avevano ampie strategie notturne, certo, per evitare le file immense che allora c'erano quotidianamente. Adesso questo è risolto, però ce ne sono altri, la terza corsia. Ma ce ne sono altri perché noi dovremmo concludere la terza corsia della 4 non per un problema estetico ma per un problema di sicurezza, perché se sommiamo il traffico e all'attuale situazione della strada evidentemente viviamo una situazione di disagio, tanto è vero che il governo ha nominato un commissario proprio per l'emergenza. Ecco, ma perché è così difficile fare dei lavori pubblici in Italia, cioè di terza corsia sull'autostrada, sulla vostra autostrada se ne parla da decenni, mi sembra. Questa è una domanda insidiosa, perché ma doverosa fatta in questo paese, anche perché poi ci ascoltano molte persone mentre stanno viaggiando e magari stanno viaggiando sull'autovia Veneta tra Venezia e Trieste. Allora chiediamo scusa, come si suol dire adesso, perché serve sempre, le scuse servono, però la domanda che lei mi ha fatto aprirebbe degli scenari sconfinati e fa parte del sistema paese, fa parte di quel paese che noi vorremmo cambiare, ma fin quando è così, è così. Cioè, quindi bisogna un po' rassegnarsi. Senta, c'era un ministro tedesco l'altra sera, ho sentito alla radio, dove interrogato diceva ma l'Italia in fondo è come l'America adesso con i provvedimenti di Draghi, dice cosa vuole che le dica? Per fare 18 chilometri ci si mette 10 anni e c'è l'articolo 18 eccetera eccetera, cosa vuole? Ma ha cominciato con l'esempio dei 10 anni per fare un chilometro di autostrada. E poi c'è anche un problema di costi, perché in Italia costano di più rispetto ad altri paesi. Lei ha un'altra domanda insidiosa, perché vede costano di più perché diciamo il sistema sarebbe impostato correttamente, ma per decenni il corso d'opera è la fase pericolosa, è la fase dove aumentano i costi, lievitano e possono anche essere raddoppiati o triplicati. Ecco, è magari un settore che dà più lavoro agli avvocati che non agli impresari edili, si dice ogni tanto. Quindi lei è parte in caso anche come avvocato, ma di questo forse è meglio non parlare, anche perché sono problemi di cui si parla tanto. Incontri. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Ancora con la voce di Frank Sinatra riprendiamo il nostro incontro con Emilio Terpin, presidente di Autovie Venete. Abbiamo parlato nella prima parte di questo impegno, appunto, presidente di un'autostrada, l'autostrada tra Venezia e Trieste, con la diramazione di Udine, come sanno bene chi frequenta questo territorio. Dico bene, l'avvocato, sì, Terpin. Perfetto. Ecco, ha avuto anche molte esperienze nel settore pubblico, presidente di istituzioni sanitarie, di associazioni, di interventi. elementi di promozione per l'economia locale, quindi un esponente di spicco, diciamo così, della società civile di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Ecco, abbiamo parlato di autostrade, problemi di realizzazione, problemi di manutenzione, problemi di gestione, ma voi avete fatto anche qualcosa di più per far amare l'autostrada, sì. Avvocato Terpin. Beh, guardi, è vero, anche perché io ho sempre pensato che qualsiasi opera, iniziativa non deve essere sola, non deve essere sradicata, non deve essere un percorso che riguarda solo quel tema. Cioè, c'è questa autostrada che attraversa una regione, che è una regione, diciamo così, proprio destinata all'attraversamento, posto che è il ponte per l'est. In realtà è una regione ricca, ricca di cultura, ricca di monumenti, ricca di bellezze. E allora pensavamo, abbiamo unito due concetti, la valorizzazione del territorio e anche un problema di sicurezza. Tante volte spesso si suggerisce all'automobilista di rallentare, di fermarsi, di prendere un caffè, a ciò che continui l'attenzione nella guida. E abbiamo detto, ma perché non, come dire, non farli conoscere quello che c'è al di fuori dell'autostrada? Perché al di fuori dell'autostrada, tante volte, a 3 km, a 5, a 7, c'è l'abbazia, c'è il produttore di vino, c'è il lago, ci sono delle cose che sono bellissime e sostanzialmente sconosciute, perché viviamo nell'epoca della fretta e uno che deve andare, vuole arrivare, di solito non si ferma se non per il caffè o per il pagamento del pedaggio. E in realtà questo abbiamo voluto tentare e i riscontri che ci sono estremamente positivi. Quindi abbiamo avvantaggiato il territorio che attraversiamo. Ecco, quindi concretamente come si sviluppa questa iniziativa? Beh, abbiamo da prima siamo partiti con la pubblicazione delle mini guide che nulla hanno a che vedere con l'Only Planet, Guida Verde, Guida Blu, ma sono estremamente sintetiche, estremamente leggibili, maneggevoli, vengono distribuite gratuitamente nei punti d'incontro dell'autostrada, della concessionaria, e adesso vengono sostanzialmente inserite, l'accesso sarà informatico, e tutto il sistema è fatto per agevolare, cioè si preme il bottone, si è vicino a una determinata zona, si scopre una realtà e un mondo. Ecco, quindi un invito a fermarsi, non solo a viaggiare, un invito a fermarsi non solo per gli italiani, perché l'autostrada è percorsa probabilmente nelle due direzioni, certo, si dice. Quindi certo. Sono anche molti gli sloveni, croati, ma direi forse anche gli ungheresi che passano attraverso queste terre. Guardi, circa l'80%, 70-80% di coloro che attraversano l'autostrada non sono del Friuli Venezia Giulia, ecco, questa è la verità. Ecco, se dovesse consigliare, non per fare delle graduatorie, abbiamo sì certamente cose molto conosciute, da Grado a Gorizia, che hanno tanti aspetti, ma una cosa che non è conosciuta, un consiglio, una curiosità su questa autostrada che merita magari fermarsi anche solo per un'ora. Ma ce ne sono tante. Ne faccio, ce ne sono tante e non voglio far torto, perché là ci sono queste sensibilità, questi campanilismi che non muoiono mai. Ci ascoltano e quindi Poi scatterebbe la critica. È una regione che vale. Ecco, è una regione che vale, certamente. Ecco, in questa prospettiva, guardando appunto al fatto di essere collegata con il mondo, Trieste era un po' una capitale, il porto dell'imperiale Regio Governo. Certo. Può riconfermare questa posizione? Sta cercando di ritornare ad essere un terminale non solo italiano ma anche dell'Europa centrale, della mitra dell'Europa? Certamente sì, ma questa non è una speranza, questa è una consapevolezza, perché abbiamo la fortuna di avere dei requisiti dalla profondità del mare o d'altro che potrebbero riportare Trieste a certi livelli sotto il profilo della portualità e quindi della ricchezza, e che ci sono state politiche miopi e locali e regionali e statali che non hanno mai centrato questo problema. Con l'Europa speriamo che ci sia un'inversione di tendenza importante. Ma può essere anche più facile la concorrenza dei porti dell'ex Euroradio, della Croazia, della Slovenia, Capodistria, Fiume, possono fare maggiore concorrenza al porto di Trieste? Ma sa, se si abili, fortunati, e se si hanno i mezzi, la concorrenza giova, non è che deprime. La concorrenza è importante, indubbiamente, è uno stimolo. Sì. Ma quindi la vocazione di Trieste resta quella di città portuale, di città di transito di città, di sbocco sul mare, oppure ci può essere qualcosa? C'è a Trieste, per esempio, ne abbiamo parlato proprio in questo programma con il professor De Maio, un grande centro di ricerca, il centro di ricerca. Al tempi, certo, certo che sì, cioè ne abbiamo tre università altamente qualificate, abbiamo la SISSA, abbiamo dei centri di ricerca che chiamano scienziati da tutto il mondo e quindi c'è una concentrazione che ci è riconosciuta a livello mondiale questo. E questo quindi può avvantaggiare il fatto di essere all'interno di una realtà che è fatta da Italia, Slovenia, Croazia. Ma certamente e poi sì, anche... cioè la caratteristica era una caratteristica internazionale. In realtà nel momento della crisi abbiamo attraversato un periodo di terziario avanzato e anche e un turismo crescente, qualificato ma crescente. Certo è che il porto significa ricchezza, se decollasse il porto aumenterebbe certo. Le ricchezze. Come sono le relazioni con i vicini, con la Slovenia, la Croazia? Ma assolutamente buone, solo che in questa fase, in questo contesto economico, diciamo, credo che ognuno sia preoccupato per sé più che per gli altri. Ecco, ma c'è ancora, adesso abbiamo vissuto nelle scorse settimane il giorno della memoria, ricordo appunto dell'esodo degli istriani e dalmati, diciamo che forse è una storia che non va dimenticata, però a questo punto è sicuramente superata con l'Europa. Ma è superata con l'Europa, ma non deve essere dimenticata, proprio perché certe cose non devono ripetersi mai più. Questo appunto è certamente importante, non deve essere, ripetersi mai più né le vicende dei regimi totalitari, sì, né le guerre, né certi confini. Il confine ormai è chiaramente una realtà che non c'è, ma dove si vede il confine? C'è un confine tra la lingua soprattutto forse? Ma è proprio sì, la lingua e l'appartenenza, no? La lingua e l'appartenenza. Il confine visivamente non si vede più. Cioè le famose sbarre, mi ricordo la cortina di ferro, certo, quando c'erano proprio le torrette, il filo spinato, certo, quello non esiste più, però indubbiamente si entra in un'altra realtà. Con la globalizzazione, ahimè, dico ahimè dal punto di vista turistico, certe cose si appiattiscono, per cui in realtà certe caratteristiche vengono meno, ma in realtà si entra in un altro mondo. Quali sono gli obiettivi che si è dato come presidente delle Autovie Venete, la terza corsia, avevo detto? Trovare i finanziamenti per completare la terza corsia. È così complicato? Assolutamente sì, perché ci sono molti problemi, diciamo così, che si concentrano in questa fase, e cioè la durata della concessione e quindi il fatto di ottenere finanziamenti a fronte di una scadenza che pare molto ravvicinata. Ecco, quindi la scadenza della concessione, però una concessione dovrebbe essere rinnovata quasi automaticamente, oppure... È un tema sensibilissimo, perché c'è il problema della concorrenza, delle gare pubbliche, dei controlli europei, dei pareri dell'autorità di controllo. Anche ultimamente il presidente Cantone ha sollevato dei problemi sulla necessità di svolgere le gare per attuare la concorrenza piena. Ecco, l'Autovia Venete è una società pubblica di proprietà quasi completamente della regione Friuli. Si vede in prospettiva una privatizzazione? Ma io penso che ogni tanto qui si fanno delle guerre incredibili, ma gli esiti finali sono certamente questi. Ci saranno delle aggregazioni inevitabilmente per razionalizzare i costi e l'organizzazione. Ci saranno delle resistenze, crea delle difficoltà quando si tratta di ridurre porzioni di potere, ma credo che la strada sia questa. Quindi progressivamente si andrà verso una aggregazioni. E quantomeno importanti privatizzazioni. Anche perché appunto avere tante società, tante piccole società anche a livello di gestione, di efficienza. Sì, ma è lo stesso ragionamento dei porti, non sta più in piedi, certo, siamo fuori del mondo. Ecco. È un'autostrada però che è fatta per collegare, è fatta per transitare, ma è fatta anche per fermarsi. Questa è forse una delle linee strategiche della sua presidenza. Guardi che questo è uno slogan, lo copio. Ma glielo cedo molto volentieri. Sì, ecco. Usate l'autostrada, ma fermatevi anche per fermarsi. Unità, anche per fermarsi. E quindi in questa prospettiva, come vede questo momento anche per il Nord-Est? Il Nord-Est è stato uno dei traini del secondo miracolo economico italiano negli anni 90. Adesso come sta andando? Ma guardi, diciamo così, in termini generali il sentimento che ci comunica è la fede, e abbiamo tutti riscoperto la fede in questo momento, ma in realtà c'è una forte determinazione a riprendere quel ruolo di traino di cui lei ha accennato. Quindi auguri al Nord-Est, buon lavoro al presidente Arturia Venete, all'avvocato Emilio Terpin che è stato con noi questa sera. Grazie. Grazie a lei, grazie avvocato, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, grazie a Luca Cremonese in redazione, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buon viaggio e buona domenica.